cose più patelle, Babilonia, arabite, cave, cosce, luocchi, embrielle, sarrano macielle, e cartelle, a strage San Daniele, Lugonotte, Cornutielle, ai trate, guaglione, pecciorelle, ma la sorte ca con tanta divozione, a culo, un fun, chiove sangue, e sarrana mattanza, e capuzzelle, a notte San Callistere, creature bastardielle, miserere nobis, compagnelle senza niente, miserere carne, oreste, tutta mercanzia, pietà, questi cerceniella, questa malattia, che sta facendo vierme, scranna sea. Mi se resto tempo, caccio feta fantasia, già ci lo suono non ce farò di pietà, e così sia, agnus dei refugatiel, revisce mana cuccotiel, agnus noi per sfregge, te scattamma carestia. Ci suono tempo, su male tempo, caccio strapazze, nierba passe, non so fermo mai a notte giorno, e non lo sento, son fizza sotto verma zitto e non muore mai, e scrollo tempo, un malo tempo, l'aria trasa un corpo frace d'andandra nea cave, l'anima è fatto vento, un malo vento, la tempesta sabbia ardente, e non si sente più la voce, ma solo ciato, la sussurranna sciosce contro vienta, la presente sale, o sputa un cielo e torna a mocca, croce come fiel. Poi nemmeno stare un men, e torna a suonchina, serrata in tanatana, muta e sorda a chi si suona, ma un fuoco già si è stato, coppe carbuna, sostesa l'anima, rinde frone limone, o fumo tatta consuma, chi l'occhi è nira, esce dalla torre sti fragaglia, cotto cotto iova, essi per nostalgia, tiene fama d'amore, gli sto ca, ramono morza, sangue scorze, chi sto cuore, miserere nobis, un giardino a sentimento, miseresta freva, senza pentimento, pietà, questa serenata che non ci ha fatto intussica, perché sta bocca parsa agni di pietà. Sente più una voce.